E io. E ci siamo qui. E domani è già martedì. E dopo domani è mercoledì. Aspetta, secco. Perché io non posso muovermi che mi subito mandare il messaggio. Aspetta, sì. Mi sta chiamando Vittorio, un attimo. Eccomi, eccomi qua. Ah, ciao, buonasera. Ben sentito. Ciao Antone, sto bene? Sì, sono a casa di Giovanna. Sono a casa sua. Salutami a Giovanna. Ciao caro, come va? Benissimo. E tu, tutto bene? Sì, un po' stanca, vuol dire la verità. Vabbè. Cos'hai detto? Le avete fatto in due? Coca-Cola. Ciao Coca-Cola. E avanti. Ciao Peduccia. Joker. Coca-Cola. Ciao. E avanti. Chi sei? E chi sono? È Papa Luzzo. Ah, fa culo tu lì. Abito a sentirti a casa mia. Ti sento basso da qua. Ah. Giovanna, se sapessi. Ho saputo. Hai saputo. Oh, se sapessi tu. Te la posso fare la bassa? Cosa? Ti posso chiamare? Chiamala. Ok, Corix. Ciao, mi tuci, buco. Antone. Aspetta che non sa niente lui. Non sa niente. Giovanna, con che apparecchio stai uscendo? Grazie per il giubbotto l'altro giorno. Sì, niente, davvero. Aspetta che perché l'ho avuto io. No, è piacere, non dovrei. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare, tutto a posto per il giubbotto. Cazzo, c'erano le chiavi di casa, se no non entravo a casa. E beh, allora io non andavo a casa. E manco chiavi della macchina ce l'avevo, che ce l'avevo a casa, per dormire in macchina. Io non so. Come mi ascolti il segnale radio, Gianni? Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova, guarda un po'. Segnale 6, sì, la radio è 5. Segnale 6, sì. Se va bene. Con che antenna stai uscendo? Da casa di Giovanna, sì, no? E antenna sì, no? Con quelle, l'antenna filare, capito? Attaccata antenna sì, no? Ma quella che ti avevano tu costruito, quella lì? Esatto, sì, bravo. Ma non l'hai messa dritta quella? No, l'ho messa orizzontale, non l'avete costruita, ma sto scherzando. Ehi, cazzo la bocca. Poi? Io pensavo che la mettessi dritta sul tetto, cazzo. Così sarebbe uscita bene da quella zona. Adesso vedo di fare qualche cosa, capito? Quando vedo il tecnico, cambio il cavo di Giovanna del... Dopo quello della parabola, ci filo 12,58, ci filo dentro, capito? E così sono a posto, almeno c'è un'antenna sul tetto e tranquilla. Ascolta, ma non si può fare con la manto, fa mettere un attacco a T e mettere due apparati in un antenna. No, va bene così, no, sto scherzando, no. Ti metto due staffe, li metto un'antenna, hai capito? Un'antenna come si deve e è a posto Giovanna, capito? L'importante è che scende dal 58 fino alla piano sotto casa mia, dopodiché da lì scende direttamente dritto in casa sua, tutto lì, hai capito? Il percorso è tutto da casa mia a piano di sotto a farlo scendere. Intanto devo utilizzare l'antenna TV normale, quella vecchia, come sonda, hai capito? Oh, Antone. Ehi, sia quella che stai facendo, che stai una fine di un'attenta a quello che dice, che se non ci faccio di denuncia, vai tranquillo, capito? Tu ti spiego tutto. Solo che fermo, perché va attento quando fa tutto quello che dice sotto, e se poi stai dicendo, fiati di Dio. Claro, c'è a fianco. E io non ci ho fatto nessuno, e se in cucina? Io sono il terrazzino, sta parlando al telefono, sta parlando. In realtà, facciamo sto dicendo, così in radio al volo, sai che devo chiamarti per prima cosa. Vabbè, io la prima cosa, la verità, non so cosa dirti. Fabio Master, come va? Ciao, grazie. fatto delle pettegolezze ultimamente. Cosa è successo? Boh, io non lo so cosa è successo, sono pronto che arrivano certe cose, certe voci, che le persone dicono certe cose, che ho tutta una serie di audio registrati e che bisogna fare le persone sane di testa, è da tutto. Quando poi non si è sane di testa non sono i problemi. Intanto facciamo una bassa veloce. Ehi, ripinti, ci sei. Qualcuno? Gianni! Ehi, c'è la Mitusa! No, dico la questione che ti ho parlato a te e basta, nient'altro, dai. Ma sapevo quanto ci stavi, 5 minuti, pensavo che ci state 3 ore. Ma no, che sta proprio, no, dico la questione lì e poi nient'altro, non abbiamo parlato perché, ripeto, non c'è problema per te. Non devo attaccarmi bottoni né niente. Giovanni sono una ricca e basta, stare rimane. E io mica ti sto dicendo niente. Ti faccio tutta la giura. Perché tu hai detto io, 5 minuti, è stato un po', ma niente di particolare, è proprio tutto qua. No, te lo stavo dicendo perché ero sulle radio, non per altri motivi, perché lo so, stavo aspettando che entrasse qualcuno, Alice, c'è. Antonello, Bobozzi. E Giovanna. Giovanna non lo so, tu. E c'era anche Fabio. Fabietto, ci sì. Fabio. No, non c'è. Era la bassa, non lo so, forse non ho finito ancora. E volevo sapere che condizione era quella questione, ca. Ah. Attenzione, Fabio. Fabio, così mi zitti. Mi ce ne faccio la faccia. Fabio. Lui è al telefono. Vabbè. Ha detto che rispondeva al telefono. Cosa volevo dirti? L'amico tuo non l'hai sentito. Chi è questo amico lì? Che tanti amici, Guido Cino. No. Ma Antonio dov'era il caso di Giovanna? E io? No? Però non ti ho quasi mai fatto Giovanna in frequenza. E boh, poi deve essere, non sono al telefono, che ne so. Non c'è nulla a previsione, sono ci sono canali per una battuta. Domani c'è un lavoretto. Quello là? Ma io non è che posso fare più di tanto. Però aspetta. Il problema è questo, io ho sparato una cifra e adesso il martedì ho detto ok, però mi ha dato la risposta oggi e inizi domani, in caso sto chiedendo per fare materiale, ma ho pagato una cifra, 107 euro sono fatto il materiale, la valigia costa, che cavolo. Secondo me dico che c'è un piccolo aumento di 100 euro, se ti va bene, si dice no, vabbè, non c'è problema, fare vado via, vado dove ho comprato il materiale, mi fa il buono e mi compro un'altra cosa che posso andare. Sono 26 pizzi in una villa da togliere un po' di ruggina, non molto, non ce n'è poca, e poi riveneggiate, capito? Capito, dai, dai, anche l'altra ruggina. Beh, quella che ho comprato è già un'altra ruggina. Color grafite, grigio grafite. Ah, un po' canna di fucile, dai. E fumo di lomba, come vuoi chiamarlo? Ho capito. Quindi rimane quella di vernice, una volta che tu la gratti, se non c'è molto da grattare. Sì, ripasso di nuovo sulla vecchia vernice, l'avevo già dato io. Io l'avevo già fatto tempo fa, lo stesso, quel trattamento là, capito? Però sono passati un bel po' di anni. Però il prezzo lo devi fare dall'inizio così. Va, non li vuoi dire un brigio, perdonami, ma io ti avrei detto, no, tu il prezzo che hai fatto quello e quello che devi fare. Tu devi includere anche la vernice e tutto. No, no, lui mi ha detto dopo che il materiale devo metterlo io. E metti, io ti do la risposta a lunedì, questa settimana scorsa. Ma io potevo già comprare la vernice e se poi mi ha detto di no mi attaccavo al naso la vernice. Ha fatto tutto il colpo. Ok, mia moglie ha detto ok, di farlo. Allora va bene, come vado a fare la vernice. Poi vado là, mi vedo queste cattive, faccio vedere che lo scontrino con l'ha fatto speso, o Davide. Guarda un po', qualcosa più me la devi dare. E non posso rimetterci io a farlo, cioè non ha giù preso. E se poi mi dice sì va bene, continuo a farlo. Sto mettendo tutta l'attrezzatura mia, due trapani, quei funghetti che vanno con le punte d'acciaio per pulire bene la questione. Ho preso carta a vetro, ho preso la prunga che sono 20 metri a voglia. Due trapani, lo faccio con mio nipote. Io molte cose non le posso fare, devo stare in... Ho seduto perché è un casino, con le pizzate le fa mio nipote. io più te la posso dare, ma ho capito. Ma comunque sono persone che non cappa, non c'è problema, vai. Magari se li danno. Tu glielo dici, me l'ha detto dopo, io pensavo che fosse la stessa lì, la se lui dice te lo dico lunedì e poi mi chiama oggi e dice è da iniziare domani mattina, cavolo, ho pochissimo tempo, devo fare il materiale direttamente veloce. Ma come materiali, sono i prezzi che sono aumentati un po' di più, giustamente ogni baratro costa 16,90 euro, 17 euro. Io adesso ho preso 5 kg, ma dovrebbe bastarmi, penso, mi auguro. E non andare a bricco, perché sennò devi fare 3 ore di fila, che c'era la fila dalla caccia fino al fondo, mica è lungo il corridoio, tutto il corridoio pieno, tutto il corridoio c'era pieno, quello centrale. E io sono andato là infatti stasera, a entrare sono entrato subito e a uscire ho fatto un po' di fila, comunque non me ne frega niente, e ti dirò che ho fatto in fretta. Ero veloci oggi. Anche io ho fatto in fretta l'altro giorno. Cappa. E di quelle spazzolie c'è stata col trama, ne avevo prato, non sì, 8 mi sembra. Così come quando si consuma, già non si consuma, ma per sicuro ho preso un po' in più. Poi il cartavetro, qualche straccetto già ne ho io, petto della polvere, pennini già ne ho. Ma quello è funghetto che fanno anche gli altri. Eia. E così sono in acciaio, vedo si consuma. E poi anche due spazzole in acciaio, per sicurezza. Questo si esagerà. Io lo faccio qua a cartavetratta, scivamento. Comunque io l'ho preso qua 3,5, 3,5 kg. E comunque se non mi ha rotto le scatole riferriate, così. C'è una rottura di scatole da fare. L'avevo fatta al ciso io. Tu pensa che sono tutti i fili che sono intorno alla villa. Sopra e sotto. Ci sono quei dei piccolini stretti, poi ci sono le porte finestre, poi le finestre, tutto inferiate. È dentro una finestra normale, come ce l'ho io praticamente qua, capito? Sì, sono oltre le palle, a pulire già fa in fretta, a 20 anni devi stare piano piano per non sporcare il muro. E sopra come fai? Perché ti metti tra battenti? No, non ti dico sopra che si passa con la scala, non è molto alto. È un pian terreno e poi c'è il sotto, io dico sotto perché c'è la discesa e va dietro la villa e continua sotto. E non ho pure male sulla scala. E ce la fa mia nipote, mica lavoro io. Oi, oi, oi. Andiamo. E io, come l'anno 9, con calma, l'ho preso per la mia nipote. E si fa anche quello. Ma va di cazzo, a travagliare così. E lo so. Allora, se ci diamo da fare un giorno, quasi un giorno per fare tutto, per togliere la ruggine. Non è che è tutta rugginosa, no, alcuni punti sono, ma vabbè la polizia non gliela diamo soltanto. E ho calcolato al massimo 2 giorni per verniciarla, con 3 giorni facciamo tutto. Ah, e vabbè, dai. Già, sì. Insomma, c'è intanto, dai. Scusate, ma passati da così. E come l'ho fatto anche anni fa, è stata bella, sembrava nuova. Sì, sì. Adesso la davo questa pitturata. Guarda, non voglio ricordare male, forse sono sì 8 anni fa. E poi all'esterno, immagino. È una pelliccia buona, eh. Quindi, la ruggine è manco, e dopo tanti anni, beh, pioggia, sole, sole, pioggia, a più fine. Ai, ai, ai. Mi sta male del sonno che è sono appena alle 12:20 e non c'entrano e mi prendi male, sono da presto oggi, ho fatto mediginnastica, ricoso, fisioterapia eccetera eccetera. Vabbè, io cosa ho fatto oggi? Non me ne metto più. Ho fatto quello che dovevo fare stamattina, con una persona, l'ho accompagnata, l'ha fatta all'altra, l'ha fatta le sue commissioni, però prima fa a casa mia. Poi niente, mi sono dormito pomeriggio, poveretto, poi ci hanno fornito a comprare il materiale. No, giornata così l'ho passata. E anche sono andato a farmi la spesa stamattina, ma domani ci devo ritornare perché mi sono dimenticato la metà della roba. E io devo riparare per una settimana a comprare un tubo già. Cioè il frigo sta scoppiando, il frigo non ne parliamo, basta. E non stai dicendo, alle 50, consumati un po' di roba, cavolo. Già che mi tocco un po' di roba da frise, adesso un po' di bistecca porto per domani, che me ne faccio. Sì, anche io ce l'ho pieno, manca un po' di pomodori, io ci ho dimenticato di prendere, c'è tutta la carne, tutto qua, ce l'ho. Ci ho dimenticato un po' di pomodori e poi devo prendere 6 uova pure. Ma ci devo andare perché di sera la mangio ogni giorno. Io invece stasera ho combinato la cazzata, più grande di me. Mi sono fatto l'insalata, guarda, le cipolle sotto sale, poi gli ho buttato l'acqua, ho fatto, cazzo mi si sciacqua, non le ho sciacquato, ho fatto l'insalata, cazzo poi che era salata, ci ho buttato via tutto, a far culo, cazzo. Io me l'ho fatto una insalata con la rucola raccolta da me, rucola, cipolle e pomodori, ma non c'è che altra volta. E io dopo sotto sale dovevo sciacquare a fatto rubinetto. Non l'ho fatto, ma cavolo. Sì, non ho mai già potuto dire, ma ho lappato tutto. Cipolla sotto sale, come fai con cipolla sotto sale? Allora, siccome la cipolla pizzica un pochettino, tu praticamente la pulisci la cipolla, fai a fettine, poi dopo devi fare l'insalata e la metti a bagnomaria con un po' di sale fino. La lasci una mezz'oretta, poi viene tolta l'acqua, sciacquata tutto quanto e poi messa insieme ai pomodori, tonno eccetera. Io non l'ho sciacquata, era tutta salata oggi che si fa. Ma no, a me mi piace proprio il sapore della cipolla di salata. Tu pensa che copre anche un po' la rucola, che è un bel po' la rucola, un po' la copre. Ecco la rucola, qua c'è nel rucola in campagna, vedi. Però non è mica che bisogna vedere i cani in giro, c'è anche gli altri padroni. E le pisciane qui te ne dava. Ma metti bicarbonato a bagno e ne impara, ne sicuro macchine che puoi in campo. Ah, ce l'ho tre che bicarbonato. No, bicarbonato, basta pulirla, così la metti e la lascia a bagno un po'. Poi lascia qui e le fate il gioco. Ma è sempre impregnata nell'interno della rucola. Intanto la fai in aperta campagna, avvisano i vacchi, la pisciano i vacchi. Ok, okay. Io Teso, come sta? Benissimo. Teso è coricato qua e addormentato, benissimo. Ma io ancora non le faccio entrare qua. Non so mai, ti ha appena quello lì che un picciolo lì. No, sono troppo piccoli. Ma in terra, pisciano sta? Sì. Ho tutto pulito la casa, Lasciate fuori. Entro in casa e pisciano in terra, la matta di nevaia, ragazzi. Perché fanno così. Io quando era piccolo, se lo portavo giù, non faceva nulla, poi andavo anche e pisciavo. Allora ho imparato, li mettevo con le traversine che si mettono, che adesive nel terra, sembrano pannolini. Poi andavo, la facevo lì, ricambiavo la traversina. La mia moglie ricambia la traversina che è fatta la pipì. E io c'ho sempre il sicchio che faccio, perché io cambio sempre l'acqua. A questo momento ho la varicina, che l'ho finita. E metto il prodotto buono, che ne ho comprato un casino, ho preso 10 punti che ne ho comprato. Ho fatto una bella scorta là. E poi ho fatto le varicine dentro. Adesso l'ho toccata. Chi è che vuole entrare? Nessuno. Già tocca il giocamento. Mi sono le orecchie di porco. Esatto, stavo parlando di Caruzzi e di pisciatine. Non ho capito come sta crescendo bene, allora tu capisci già. Anche se piantini di pomodoro è bello, e quello dei citrioli. Bene, bene. Quindi per la raccolta. E così quando ho fatto le sala è tutto recintato con la rete, palette, ho fatto un bel lavoretto, il cancelletto. No, anche se non facevo questo lavoro qua i cani me la distruggevano. Tu pensa, quelle piante grasse che sono rotonde con le spine a pelle, che una volta di tanto ti fanno quel fiore bellissimo. C'ho un vasetto, ce ne sono 7-8 di quelli lì. Ha fatto questi fiori tutti belli e le cani me le ha distrutte, la mazza delle guarie. I fiori si ha mangiato. No, le si giocano, le distruggono, le prendono a pizza e butto a terra. Foglie della menta, non so sapore. Avanti, break. Chi è che vuole entrare? Io che voglio entrare, sono io che voglio entrare. Avanti, accomodati. Ciao Riccardo. Ciao Torino e ciao Gianni. Sì, comunque io sono presente, sono entrato nel team orecchie di porco. Avanti già. Adesso ti faccio fare le orecchie d'acido pure. Si allungano. Un attimo che c'è un po' di casino, stiamo spostando la macchina, non ho capito che cosa. Ma perché in macchina sì? No, Bobbo sta spostando la macchina, io sono in garage e lui che sta spostando la macchina la sta girando. Ah, ho capretto. Gian Borgetto, ha detto Gianni che ci fanno anche le orecchie di asino. Le orecchie da cavallo. No, d'asino, perché sono più lunghe. E il naso lungo come il Pinocchio. Aspetta, come è entrato Riccardino, ha dovuto abbassare i volumi tutto quanto perché ha spaccato tutto. È potente Riccardino. Il 430. Cos'è Riccardino? Che io sono troppo potente e tu non dire niente, lo shock, ho già appena sentito che cosa hai detto. Tu non hai detto niente. E cioè? Ha detto che cosa stavo usando, questo qua che sbircia tutto. Questo qua che sbircia tutto c'ha un 9. No, ha detto che lui molte volte si alza la mattina alle 4.40. No, alle 4.30. Oh, 4.30, sono 4.30, vai. E non c'era nessuno, c'è del baracchino ma non c'è nessuno a quello. E beh, sono tutti addormentati, cazzo. Regard. Regard, ho visto che hai commentato la mia foto. L'hai vista. Ti sei pompato. Positivo. E dove ce l'hai la tua foto di capire? Che sono andato in parapenda. Era in parapendio. Col parapendio volando. Io ho scritto grande Riccardino. Anzi, Ricchi ti ho scritto, Ricchi. Ma dove c'è la sua foto? Ma non c'è proprio Riccardino, lui. Sì, mi sono dimenticato, avevo troppe cose da fare perché stavo sistemando a casa tutto il giorno. Devo ancora accettarti la richiesta. Ah, meno male, dai. Hai visto chi sono io, sì? Sì, l'ho visto, le ho fatto vedere a Babbo e già si ricorda di te. Ah, ti ha detto che era un motomonello prima, vero? Però... però Riccardì, sono un pezzo di pane, ma chi mi pette i piedi mi trova. Eia, a te non so neanche che ore sono, le 22.52. Io fra un po', tra una decina di minuti, scusate, sono entrato per salutarvi anche perché fra una decina di minuti vado, sono entrato per salutarvi perché non vi ho sentito. L'ultima volta forse vi ho sentito venerdì perché non sono entrato né sabato né domenica e sono entrato stasera e niente. E che cosa avete parlato? Male di me intanto che non c'ero? Assolutamente, non parlerei solo male di te. Tutta la sera stavo parlando male, Torino, sto dicendo male. Quello Riccardino, Non mi permetterei mai. Riccardino. Di te stavo parlando male, Gianni. Quello sì. Lo so. Vabbè, pensate che se ne parli. Che ne parli male o che ne parli bene, pensate che se ne parli. Vuol dire che qualcuno lo tocca. Vuol dire che tutti pensa. Riccardì, ricorda che ti vogliamo bene, punto e basta. E guai chi ti tocca. Bene, bene. E non ha botte di ferro, Brecca. Avanti, brecca. Sono salutato, sono entrato un attimino a salutare, stavo facendo qualcosa e adesso ho detto, saluto gli amici del canale 10, gli amici della notte. Ciao Tonino, ciao Riccardino, ciao Gianni, poi non so se ci sia qualche un altro. Rimango qualche minutino e poi vado a coricarmi. Ce ne sono, robe. Comunque grazie del pensiero che sei venuto a salutarci. Niente, mi stavano chiacchierando il più del meno. Stavo facendo i pipistrelli. Ciao Roberto, ben entrato, avanti Riccardì. Ciao Roberto, ben entrato, anche se ti avevo sentito poco fa, c'è quasi quasi, ho guardato il tempo, un'ora di bassa, e comunque ti saluto di nuovo, anche se ci siamo sentiti per un'ora, e niente. Comunque quella cosa non l'ho trovata, ho cercato dappertutto, non ce n'è uguale a quella che mi hai mandato. Ok, vabbè, non c'è problema, non ti preoccupare. Ok, avete sentito la radio di Riccardino? Ti fa sordo adesso. È potente. È infatti l'ho detto che devo abbassare il volume quando entra lui. Infatti mi sa che conviene che la abbassiamo un pochettino, Riccardi. No, infatti abbiamo fatto delle prove poco fa, un'oretta fa, e non avevo dei raffronti con gli altri, però cacchio, il confronto sta uscendo molto forte. Raga, sono qui, non scappo. Abbassa il macchinino. Mamma mia, quanto casino, cioè, si stava così bene con QRM, boh! Sì, ciao Fabio! Riccardi, ciao Fabio, mi hai sentito, abbassa un peluzzino, quanto ce l'hai adesso? Tra l'uno e il due? Fabio, rompi! Complimenti per la radio, break, avanti break, saluti a tutti, fai una bella questa. Ciao Fabio, mi hai sentito, Pio Pio! E cerca di aumentare qualcosa, cavolo! Ti ho chiamato per più volte, non hai risposto, Fabio. Ah, sì, sapevo di bassa movimentata. Riccardi. Oh, aspetta che abbassi un peluzzino. Così forse va meglio, ti piace di più? Perché tu non stai abbassando il micro, stai abbassando la potenza. Bello beh. Bello beh, io sto abbassando il micro gain. Ma sei sicuro? Certo, secondo te sei un buccia di yoga, mica lo conosci il micro gain, alla potenza. Va bene, dai. Ok, non andare troppo perché sono sblatteri tutti i canali e disturbi mezzo sassari. Ok, dai, no, già va bene, Riccardi, lascia così. Tanto siamo tutti in quarantena a basso volume. Ok, vai Fabio, a te. Cappa, saluto Tonino che si mette per Pio Pio. Mi sento un uccellino quando dico Pio Pio. Vabbè. Ah, vabbè, chiamato quella persona, ha detto ok, ha un po' meno di quanto ha pagato lei. Ma sempre quell'importo che hai detto tu? 30. Va bene, dai, funzionate, non ha nessun problema. Tanto mai acceso, faccio da provare. Va bene, dai. Ok, poi già ci mettiamo d'accordo, dimmelo quando è disponibile e vediamo un pochettino. Ok, però state parlando in 40. Riccardi, un attimino. Avanti te, Riccardino, poi Tonino e poi Gianni. Ehi, saluto a Fabio. Non ci sentiamo. Non ti ho sentito per tutto il fine settimana, ci sei mancato. Mi sei mancato. No, vabbè, scherzo, tutti. Dunque Fabio, sarà la posizione mia che ti sento più pio, non è colpa diciamo tua o dell'antenna, è la mia zona che è negativa per la parte tua, capito Fabio? Tony, ma io sono in mezzo ai palazzi, c'è un pezzo di filiferro tra i palazzi, accidenti, cioè tu sei capace di fare di ex, io sono tra i palazzi, mi sa che la colpa è la mia, Tony, appena. Ma se gli altri ti ascoltano bene vuol dire che io sono negativo per la zona tua, tutto qua. Tu Gianni, come l'ascolti? Sì, sì, parla di più, non ti interessa, Fabio. Allora, io si alzo un po', c'è Riccardino che mi spacca le orecchie. Se devo andare per lui, devo abbassare per Riccardino, devo fare sempre alte e abbasse, alte e abbasse. Ma sì, molto, molto interessante, però di più, tanto mi interessa tantissimo. Daniele, fai da bravo. Cosa mi devi dire? Dimmi, Daniele. Ciao, cosa c'è, Rubi? Ma hai cambiato radio o sempre la stessa? Sempre la stessa, non ne porto radio, non c'ho gana. Riccardino, bello. Riccardino. Oh, cosa c'è, Tony? Mi sa che ti chiamo il Migno, so te. Perché? Perché facevi la voce come il Migno? Fabio! Ah, ma andiamo esatto, punti del grammofono, oggi ho bevuto qualcosa, Riccardino, troppa Coca-Cola hai bevuto. Mi dispiace, in pizzeria ho bevuto Sprite. E si è bevuta Giovanna. Che è Giovanna? Giovanna Coca-Cola. Daniele, figlio di Giovanna. Daniele. Oh, un attimino, tranquilli, cacchio, sono entrato io un po' di aburotto, uno per volta, allora Fabio, vai tu, poi riprende Gianni, Riccardino e Tonino, se no qua non si capisce niente, vai Fabio. Gamba, allora, c'è all'apparato Daniele, il figlio piccolo di Giovanna, che mi stava chiamando, vediamo un pochino Daniele, Daniele mi ascolti, cosa c'è da dirmi, dimmi. Cos'è che hai detto Daniele? Oh, roba io non l'ho capito. È un picciolo, Riccardo è troppo fatto, guarda, è una simpatia unica. Ok, vai Gianni, tu e poi Tony. Ehi, allora, non ho capito cosa ha detto Daniele, non si è capito nulla, via. Va bene, Tony, riprenditi. Riprenditi che io sono un po'... a mio canto. Ecco, Riccardino ha preso una giornata. Aspetta, energia che c'ha Riccardino? Niente, io ci dico, è bombazza, come fuori. Avanti Riccardino. Sì, sì, però non è più male, Fabio. Abbassa le voci, Riccardo. Non sono io, sto parlando, oh, bene bene. Non ho capito, Roberto. Figlio piccolo di Giovanna, dalla palazzo di Pompugno. Ah. Sì, sì, ma che c'è stanno? Robè, oh Robè, secondo me tu hai bevuto, non io. Che cazzo, ma non ti sei bevuto? Robè si è cambiato spacciatore. No, tu hai bevuto Robè, non io, che stavi pensando che ero sempre io quando era Daniele. Di capuccia! Ah, non è coso Riccardino? No, è Daniele. Ah, quello non mi ha compreso, voi! Il figlio di Giovanna. Ah, ho capito, io pensavo fosse Riccardino che stesse facendo, prendendo in giro. Bellissimo. Ma tu hai bevuto pensando che ero io, mamma mia! Cioè, questo segnale è identico, identico. Ehi, anche la fondazione giù, no? Da Giovanna, gli ha messo un attimino a Tonello, capito? Ma la pelle va benissimo, ci mancherebbe, te la farà tutto. Non mi fa fare anche nessuno le cose che dici tu fa. Ma questo qui l'ha parlato adesso? Cosa che dico io? E c'è un po' che veloce che... Ma prendi ancora le scatole? Aspetta che butto quel bip, va, quasi quasi. Sta scorre già puzza. E io dice, gli altri dice che io parlavo veloce, ma io mi avuti. Sì, sì, rompi. Daniel, lo fai da bravo. No. No, hai detto no. Addio Fabio. Io ci passerò lo stesso. Allo stesso, hai capito? Guarda che vengo lì e ti faccio dare le curature da mamma. Fabio! Gappa. Cazzo, io ero convinto che fosse Riccardino che sta facendo una voce diversa. Ho detto, ma che cazzo, si è bevuto Riccardino. Mi sei posto a scorreggiare! Ma è più piccolo di Riccardino, quanti anni c'ha questo ragazzo? È piccolo, sì. Quanti? 8. Ah, per quello, parla troppo veloce. Io ho preso a Riccardino, ma sta cambiando l'apparato. Sembrava che lui avesse due apparati diversi. Ho detto, buh, che strano. E tutti si scherzano quando ha detto il figlio di coso. E tutti si prendendo in giro a Riccardino dicendo, Daniele, lo chiamassi come Daniele a Riccardino per prenderli in giro. Invece c'è proprio questo Daniele. Guarda, pare a schifo questa situazione, però per quanto riguarda individuare le motivazioni, così come l'ho organizzata, pure umoricamente, è micidiale. Ah sì, sì, sì, non di più, non parla di più, molto interessante. Ah, ma sta dicendo, non ho capito. Sta giocando. Ma che rompi! Riccardi, questo ti fa 10 al 0, mi stai attento. Nessuno mi batte, Robè, stai tranquillo. Guarda, si annientano, hanno il segnale uguale, quando parla uno e l'altro si annientano, per quello che mi ha fregato a me. Pensavo fosse il Riccardino che sta facendo la voce strana. Fabio! Hai capito, io invece da una stazione sentivo Riccardino e dall'altra sentivo Daniele, figurati. Allora, aspetta un attimino, Daniele, parla piano piano e voglio capire, mi dici come ti chiami, così voglio sentirti, piano piano, ok? Daniele! Daniele, ok, ben sentito Daniele. Parla più lento così riusciamo ad ascoltarti anche noi. C'è anche Riccardino che è un ragazzino lo stesso giovane, c'è Fabio, c'è Gianni Doppio Rub e Tonino. Adesso tu devi dare lo spazio che parlano gli altri, che ti salutano, va bene? Ciao Roberto! Vai Tonino che saluti a Daniele, se lo ascolto. Certo che lo ascolto, ciao Daniele. Fare spiriti contare fa vedete, avanti già. Ma è bravo! Fabio no! Ciao Daniele, ciao! A Fabio ha detto che non lo vuole, senti tu. Gappa. Amore. Fabio puzza! Fabio puzza. Ogni appava. Questo sì ti tira l'allegria, Daniele, mi senti? No! Piano, Daniele, parla più lentamente, piano piano, come quando sei a scuola che ti interroga la maestra. Mi senti? Yeah. Adesso ti faccio parlare con Riccardino, che è il più giovane qua, il ragazzino più giovane di tutti. Avanti Riccardino per Daniele, così lo saluto. Ciao Daniele, ben ascoltato, 73 e sì, a quanto ho capito da tutto il discorso, cioè 35 sovramodulazioni, siamo in 4 gatti e niente, ho capito che il figlio è Giovanna comunque, è il riassunto. Daniele, saluta Riccardino. Saluta Riccardino, Daniele. Ciao Riccardino. Ciao Daniele. Ciao Giovanna, sono stato ti ho sentito. Io sempre. Ecco, c'è stato l'aspide Gonzales, tuo figlio Giovanna. Comunque mi hai sentito anche a te, Roberto qua da questa parte. Ciao, amico, come va? Anche Giovanna non è che parla molto lentamente, già parla veloce anche lì, già si vede, che figlio. Ecco chi ha preso il figlio, ha preso lì. Beh, ci voleva un bambino in ruota, eh. Sento allegria, oh no Roberto. Poi adesso ci manca anche la sorellina di Riccardino, che è più o meno coetanea di coso, di Daniele. È un'altra peperina. Fabio Scorreggi. Antone. Cosa adesso non capisco? Adesso Fabio Scorreggi. Antone. Queste qui sono le cose che dice a Toledo di dire, capito? Te lo puoi immaginare. Ma pensa tu che Giovanna quando era piccola, cioè stava sulla gamba di Antonello mentre modulava, pensa tu cosa gli ha fatto dire a sta bambina. Fabio Puzza non si lavava da 6 mesi. Daniele, Daniele mi senti? La Puzza. E in che classe vai tu? Terza. In terza, ti hanno promosso quest'anno? Certo. Certo, quindi vai in quarta. Tanto tempo? Non ho capito, la prossima anno adesso? Sì! Ok, va bene, parla piano piano, così ti ascoltiamo tutti e ti sentiamo bene tutti. Vai Gianni doppio ruolo. Dai, Fabio no. E poco se lo furti. Oia, grazie loro che ci hanno visto a questa energia. Sogna brutto però. Ok, oh signore, adesso vado via, dai, sono un po' stanchino. Saluto a tutti quanti, iniziamo in ordine di età, almeno se no, se non vado errando. Ok, inizio dal piccolino, da Daniele, poi c'è Riccardino, poi penso che ci sia Fabio come ordine di età, poi c'è Gianni doppio room, è più vecchietto, relativamente vecchio, si va per dire, è più grande, è Tonino. Vi saluto a tutti, è stato un piacere ascoltarvi, divertente come al solito. Ciao ciao, cuore da parte mia, aspetto il finalino e poi alle prossime, ciao Fabio. Ciao Robè, buon corretti e buon tabacco per domani, avanti Fabio. Ciao Roberto, ci vediamo domani, quindi magari ti do la news su questa cosa. Ciao, perché tanto ho fatto però ogni mattina me la deve dare, no, vediamo, ci vediamo alle prossime, buon tutto, poi ci sono 44 e più c'è, e più c'è, più salute, ricapito per il saluto. Positivo, grazie Fabio per il mic, saluto a Roberto, buon 144 quando lo fai e ci sentiamo domani. E va bene, passo il mic a Gianni doppio room, ho già passato, boh, non mi ricordo. No, non l'ha passato nessuno, ciao Roberto, buonanotte, 144 quando lo fai. Avanti, carino. Oh Fabio! Cazzo, sono lì, nessuno non si canta per essere, nessuno si è avanti alla corriera. Beh, spero che domani o dopodomani arriverà a prendere il tuo pezzo. Fabio, forse sta pallolina! Sì, amore mio, sì, certo. Sì, certo, sono lì. Nulla, ma tutto pronto, domani per il pezzo arrivo a me. Ecco, aspetta solo che, tutto adesso è fatto, si è messo il capo, tutto, capito? Dai, più Fabio, molto interessante. Ok, d'accordo Fabio. Bene, ragazzi, mi sta cambiando ciò di quelli qui perché si è fatta una certa, devo cambiare il TPA, è stato per cambiare. Allora, saluto di Riccardino, saluto di Daniele, saluto di Gianni Doppio Room e saluto di Tonino. Dai, ci vediamo domani, magari anche, anche di pasta già, che da un po' che ci vediamo, magari ci prendiamo un caffè, come in Guglia. Ehi, ehi, vediamo, va, non c'è problema, quando vuoi. KK e niente, ciao, ci sentiamo, buonanotte e buonanotte al caputile quando la fai, avanti tu. K. Ciao Fabio, buon pomeriggio e ci sentiamo domani, dai. Va bene, avanti Riccardino. Va bene, ciao Fabio, ben ascoltato e alle prossime, domani ti faccio anche una bassa che ti devo dire due cose. E niente, buon 144, mi sa che anch'io adesso annuncio il mio corretti che come sapete quasi come tutte le sere la carriola aspetta, è un orologio svizzero, sta aspettando da un po', l'ho fatta anche tardare, adesso la prendo e porto tutto dentro. Comunque di nuovo ciao Roberto, Fabio, Gianni e Tonino e poi anche come che si chiama, se mi sto confondendo, a Daniele, scusate, saluto anche a Daniele e ci sentiamo domani, ciao a tutti. Riccardino. Cosa c'è Donino? La carriola, scusa. Cerca di accettare su Facebook, ok? Sì, adesso lo faccio, il telefono dentro, così stai tranquillo, ti metti la vita in pace. Ok. Ciao allora, buonanotte, buona carriolata. Avanti Daniele, avanti Gianni, tutti scopparci. Avanti. Guarda che tua madre non c'è qua, te l'ho detto da un'altra volta. Hai sbagliato canale. Ti ho chiamato e poi è tornato su a fare la pedra a chiesa, dato che la madre non c'è qua. E io. Oia, oh yeah. Torino. Oia. Yeah. Abbiamo finito. Oia. Oh yeah. Questo non è di colore. Grazie, Rosso. Giovanna, non lo so. Giovanna, sì, sì. A Toledo. E mi sa che anche noi ce ne mandano tutti. Non è che ne abbiamo tanto in avanti. Adesso qua non faccio l'iniezione. Andata. E io lo stesso poi domani devo baciare. Non so se la mia risposta, allora lo stiamo là. Ok, già, dai, questo già. Io 11:15, non è che sia stato presto, ma non è che sta. Ma questo è fatto. Ok, già, dai, ci sentiamo domani. State bene. E buona giornata. Ciao, ciao. Buonanotte, ciao, ciao. Ciao, buonanotte.